376. Zucchini col rigamo. Il rigamo, origanum vulgare, è il seme odoroso di una pianticella selvatica della famiglia delle labiate. Prendete zucchini lunghi, non a piccola quantità, perché scemano molto, e tagliateli a fette rotonde della grossezza di uno scudo. Mettete al fuoco una sauté o una teglia di rame con olio a buona misura, e quando comincia a bollire, gettateci gli zucchini così naturali e a fuoco ardente, rimuoveteli spesso, conditeli a mezza cottura con sale e pepe. Quando accennano a rosolare, spargeteci sopra un buon pizzico di regamo e levateli subito con la mestola forata. Potranno servirsi soli o per contorno e piaceranno. Il regamo si presta a rendere odorose anche altre vivande, come i funghi in umido, le uova nel tegame, le acciughe, eccetera.